Fujiko Factory, your musical playground. Buon martedì di Fujiko Factory a tutte e tutti. Da Adelina e Lucri, volevi dirlo, eh? Sì. Buon martedì di Fujiko Factory, parte una nuova puntata. Siamo ben felici di essere qui in diretta sui 103.1, anche perché oggi puntatona. Oggi puntatona tra le tante che facciamo, tra l'altro. Le nostre sono sempre puntatone. No, puntatona perché oggi, a parte che faremo questa prova di collegamento diretto con degli inviati speciali da... Sì, oggi possiamo dire che nella nostra redazione musicale abbiamo due super inviati d'eccezione. Allora, dovete sapere che io stamattina mi sono svegliata molto presto. Vabbè, e ho giocato a basket, ecco. Quindi è tutto concesso, giusto? Giocato a basket, non riuscivo manco a parlare perché anche io ho giocato a basket e siamo distrutte perché dovevamo caricarci per la puntatona di oggi. E ci siamo caricate, appunto, dicevamo, abbiamo due inviati speciali che sono Alfo e Giuli, che salutiamo se sono il nostro ascolto, ma che sono appunto in procinto di arrivare in piazza San Giuseppe, dietro all'Arena del Sole, per appunto il presidio che ci sarà oggi, manifestazione dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo e della cultura. Esatto, come a Bologna, ma come in tantissime altre piazze d'Italia, c'è questa mobilitazione a livello nazionale per, diciamo, protestare o comunque per visibilizzare la situazione che al momento le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo stanno vivendo, perché oggi 23 febbraio è una sorta di data simbolica che ci rimanda purtroppo a un anno dalla chiusura dei primi locali e quindi il blocco dei concerti e degli eventi dal vivo. E infatti gli hashtag della puntata nostra di oggi andranno incontro a quelli che sono gli hashtag della giornata di oggi, che è un anno senza eventi e un anno senza reddito. Quindi anche noi appoggiamo in pieno questa causa, metaforicamente siamo anche noi in piazza insieme a voi, e anzi, visto che c'è ancora una mezz'oretta per arrivare in piazza, se siete in ascolto potete raggiungere la piazza. Esatto, quindi è un invito a tutti e a tutti di recarsi in piazza a supportare questa causa, quella di oggi, che è una delle tante che stanno emergendo da questa crisi che la pandemia ha portato, e quindi invitiamo chiaramente tutte e tutti a raggiungere la piazza, e perché no anche a scriverci se siete in piazza al 333 180 94 94. Un presidio, punti in contemporanea in 20 piazze d'Italia per dare appunto voce a chi voce in questo anno non ha. Ovviamente ricordatevi la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale, fisico ovviamente, anzi non quello sociale, ecco, ma no, quello esatto. Fisico. Sociale mai distanza sociale. Mai. Tra l'altro, appunto, dicevamo una data simbolica, un anno esatto dal blocco totale del mondo dello spettacolo per centinaia di migliaia di lavoratori del settore, un anno di profonda precarietà, disoccupazione, assenza totale di prospettive. In questo anno non abbiamo mai smesso però di lottare per misure di reddito e di sostegno strutturali per una diciamo totale riforma del settore per la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Siamo appunto anche noi consapevoli che una riforma del settore non può esistere se non all'interno di un sistema di welfare che permetta a tutte e a tutti di superare le soglie di povertà grazie all'introduzione appunto di un reddito di base universale. Quindi noi diciamo che insieme alla piazza chiediamo la presa in carico da parte delle istituzioni competenti di punti che sono essenziali e urgentissimi. Ve li racconteremo durante questa nostra puntata di Fujiko Factory, un martedì di Fujiko Factory anche quest'oggi possiamo dire d'eccezione, tutto verso la mobilitazione che ci sarà appunto oggi per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo e della cultura. Wow, Lucri, questa... Ora posso respirare. Respira, no, grande. No, che dire, in realtà... Devo essere sincera, se oggi non fossi dovuta venire in radio sarei sicuramente andata in piazza, perché è anche una causa che io seguo da un po', nel senso che la mobilitazione di oggi è una delle tante che si sono organizzate anche durante l'arco di quest'anno, e infatti oggi è una data appunto, come abbiamo detto prima, simbolica, perché riprende l'anniversario delle prime chiusure, purtroppo, che ci ricordiamo molto bene. bene e dei primi delle prime istanze in seguito allo scoppio della pandemia. Quindi durante questa puntata cercheremo anche di ripercorrere un po' quelle che sono state le tappe fondamentali all'interno di questa lotta, perché è una lotta quella che le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo oggi stanno portando avanti, e per appunto visibilizzare questa situazione che rimane in ballo, rimane ferma, rimane in stallo, come sono d'altronde in stallo anche tutti i concerti, tutte le sale da concerto, tutti gli spettacoli dal vivo e di conseguenza tutto il settore che ci sta dietro, perché ricordiamo che l'arte, la musica e la cultura sono alcuni dei tanti settori che in questo momento stanno davvero fatica, non dico a vivere ma proprio a sopravvivere, perché la situazione è questa, una situazione che chiaramente la pandemia ha esasperato, perché tutte queste problematiche erano presenti anche prima, come la precarizzazione ad esempio del lavoro all'interno di questo settore, purtroppo è sempre stato un tasto dolente in Italia, nel mondo, ma soprattutto in Italia, e quindi insomma sentiremo anche tante voci dalla piazza, tanti contributi, voci della conferenza di stampa sì, che c'è stata ieri. Appunto, una puntata del nostro Fujiko Factory di martedì tutto d'eccezione, appunto per appoggiare in pieno questa mobilitazione che appunto avverrà tra pochissimo in 20 e passa, diciamo, piazze italiane, ma appunto soprattutto dando voce a chi in questo momento sarà in piazza, quindi sempre con i nostri inviati speciali, ma poi vi faremo ascoltare anche una piccola introduzione della conferenza stampa di ieri, così insomma ci facciamo raccontare, possiamo dire così, dalle voci giuste esattamente, esatto, cosa succederà oggi. Poi avremo anche un lavoratore dello spettacolo, Vincenzo, che abbiamo raggiunto poco fa, e poi appunto insomma tante novità, come ad esempio anche i Daft Punk che si sono sciolti. Esatto, la triste notizia che ci è arrivata ieri, io ieri sera mentre mangiavo l'ho scoperto e mi è salito un attimo il groppone facendomi consumare la cena nella maniera più triste possibile, perché dopo 28 anni di 28, carriera sì, il duo si è sciolto in grande stile, perché ha pubblicato, non spoilerare, ha pubblicato qualcosa, non si sa bene cosa, pure ve lo racconteremo dopo. E poi appunto vi parleremo anche di ultimo concerto che ci sarà questo sabato 27, ma poi vi racconteremo anche appunto, ripercorrendo un po' cosa è stato questo anno, anche ad esempio il flash mob rumoroso con 500 bauli in Piazza Duomo a Milano, che è avvenuto a ottobre, quindi insomma tante mobilitazioni, tutte però per dare voce alla stessa tematica. E oggi, come avete forse capito, avremo 4 ore di programmazione per raccontarvi tutto questo. No, purtroppo no, resteremo insieme fino alle 17 e avremo anche tanta musica. Tanta musica come questa base che abbiamo in sottofondo. Yeah, me l'hai messa sul yeah. Esatto. Base che tratta da una delle colonne sonore del film Kill Bill di Tarantino. Giustamente Adelina è damsiana anche oggi, ma una base che preannuncia il primo brano di questa puntata di oggi. Esatto, perché loro sono i Black Eyed Peas con un'altra cover di un altro brano tratto da un altro film di Tarantino, questa è Pump It. Check this out right here. Do wanna hate on us? Do need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Chuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum, she wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls waiting to do they thing. Pump it louder, come on, don't stop and keep me going. Do it, let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Wow! E questi erano i Black Eyed Peas con Pump It, che Lucri ha già cambiato base per la mia... Ah, no, in realtà ancora no. No, ce l'hai ancora, perché prima mi ha detto, bella è questa base, però... Però la cambiamo. Però Glenn Miller. Vi ricordiamo che potete scriverci al 333-180-94-94. Fateci sapere se siete in piazza o comunque almeno se vorreste esserci. Però insomma, con Radio Città Fucico vi portiamo anche in piazza. Se vi accontentate di questo aggiornamento radiofonico che ci terrà occupate tutta la giornata di quest'oggi. Infatti adesso stiamo per sentire uno dei primi contributi che proviene dalla conferenza stampa che c'è stata ieri online, partecipata e copartecipata da tutte quelle realtà che hanno reso possibile la mobilitazione di oggi e che hanno costruito assieme alla mobilitazione di oggi, vedendosi in assemblee, in spazi di confronto, e dalla quale è uscito anche un manifesto in cui le lavoratrici e i lavoratori richiedono tutte quelle rivendicazioni che al momento a livello istituzionale non vengono accolte. Appunto, perché questa lotta ci riguarda, come scrivono nel manifesto, e ci riguarda a tutte e a tutti. Vi ricordiamo appunto che sta per iniziare in piazza San Giuseppe qui a Bologna, ma poi in realtà appunto in tantissime piazze di tutta Italia. Appunto, manifestazione per un anno senza eventi, un anno senza reddito, e ora diamo parola alla conferenza stampa. Come network, professionisti, spettacolo e cultura, emergenza continua, e come rete intersindacale RISP abbiamo pensato fosse giusto, doveroso, necessario dare vita a questa conferenza stampa online per ribadire quelli che ormai sappiamo essere i nostri contenuti. Sono chiari, direi, ormai a migliaia e migliaia di colleghe e colleghi, ma è giusto ribadirli, è giusto sottolinearli, perché le nostre richieste sono assolutamente legittime. Però in questi mesi, ormai in questo anno, possiamo dire, spesso da parte delle istituzioni abbiamo trovato sordità nei nostri confronti, abbiamo trovato non totale volontà di risolvere le nostre problematiche, spesso abbiamo trovato volontà di confronto e volontà di ascolto, ma quando la volontà di confronto e di ascolto non dà luogo, poi non dà seguito a provvedimenti, altre cose che vadano realmente a tutelare la condizione di lavoratrici e lavoratori, allora a quel punto il confronto rimane fine a se stesso. Noi vogliamo continuare le mobilitazioni, vogliamo continuare a portare avanti le nostre istanze, vogliamo continuare a portare avanti i tavoli di confronto sia a livello di governo nazionale, governo centrale, sia a livello di istituzioni territoriali. L'abbiamo sempre detto, da quando è in piedi il nostro network, ovvero ormai da un anno, abbiamo sempre cercato il confronto, il dibattito e la risoluzione di problematiche legate al nostro mondo del lavoro e quindi di conseguenza alle nostre condizioni lavorative e di vita, cercando di confrontarci a tutti i livelli. Abbiamo creato tavoli di lavoro dal più piccolo comune fino ai ministeri. Questa è stata sicuramente la nostra forza, perché siamo stati capaci di essere radicati sui vari territori, di poter dare vita a mobilitazioni nazionali come quella del 30 maggio, che ricordiamo come una data storica, durante la quale siamo scesi in piazza in 16 piazze italiane. Le piazze sono aumentate rispetto alla mobilitazione del 30 maggio, a un anno di distanza da quel 23 febbraio in cui effettivamente gli spettacoli dal vivo sono stati interrotti. Quella data ha segnato un pesante cambiamento in negativo di quella che è la nostra condizione, che sappiamo essere già precaria, instabile, sia a livello di tutele, diritti e garanzie, sia a livello reddituale. Questa crisi sanitaria, di conseguenza economica, ha evidenziato le nostre problematiche, le ha rese trasparenti agli occhi di tutte e tutti. questi erano i Gorillaz, 103.1, sono le 15:23, sta per iniziare la manifestazione di mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo e della cultura. Unite tutte le piazze d'Italia, si torna in piazza in tantissime città da nord a sud, perché questa lotta ci riguarda e ci riguarda tutti. Continuate a scriverci al 333 180 94 94. Ci scrive Cinzia: care ragazze di Fujiko Factory, io come spettatore voglio essere vicino al personale dello spettacolo. E poi ci scrive anche il nostro direttore dicendo che gli copiamo la playlist, ma non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero, perché lui si riferiva a un pezzo che ha mandato ieri, che era il brano originale da cui poi i Black Eyed Peas hanno fatto la cover, ma in realtà noi quel brano lo passammo qualche tempo fa. Hai ripassato anche i tempi verbali stamattina. sì, oltre a giocare a basket ho fatto anche una lezione di grammatica, e lo passammo qualche tempo fa in una puntata dedicata appunto alle serie TV e ai film. Io vorrei leggervi due manifesti che sono in questo momento in piazza, molto belli. Il primo dice: nei titoli di coda c'è gente che lavora e che non esiste cura senza reddito e diritti alla cultura. Esatto, perché il reddito è una parola chiave della giornata di oggi e compare spesso tra le rivendicazioni delle lavoratrici, dei lavoratori dello spettacolo, e compare anche nell'introduzione che abbiamo sentito poco tempo fa di un lavoratore dello spettacolo che ieri appunto ha aperto questa conferenza stampa per lanciare la giornata di oggi. La conferenza stampa poi è andata avanti per circa un'oretta e sono stati tanti gli interventi e i contributi da parte di associazioni, gruppi e tante anche le sigle sindacali che hanno aderito alla piazza e alla giornata di oggi, tra cui appunto anche una rete di auto-organizzati spettacolo a Roma, che ha ribadito la centralità del manifesto che appunto è stato pubblicato qualche settimana fa e che porteranno avanti come prima istanza, ad esempio alla piazza che si terrà a Roma di fronte al Campidoglio, per appunto rivendicare tutta una serie di diritti e di non mi viene un'altra parola, in cui appunto vista anche il nuovo governo sarà interessante capire se ci sarà continuità tra il precedente. Dopo Conte, continuità, ecco, grazie Luca. Perché è una domanda che ci facciamo in tanti, soprattutto in questo momento di crisi, e quindi staremo a vedere se queste rivendicazioni, a differenza del governo precedente, saranno ascoltate oppure no. Ovviamente poi vi ricordiamo che anche la conferenza stampa di cui vi abbiamo fatto ascoltare un pezzetto la trovate sulla loro pagina Facebook, e ricordiamo anche gli hashtag: un anno senza eventi e un anno senza reddito. Esatto, io prima dicevo, parlavo di continuità governativa, perché una delle rivendicazioni all'interno di questo manifesto è appunto la convocazione di un tavolo interministeriale che coinvolga le lavoratrici e i lavoratori del settore dello spettacolo e della cultura, e che a questo tavolo siedano sia il Ministero del Lavoro che il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Tra l'altro ho appena ritrovato il foglio, la pagina Facebook nazionale di professionisti spettacolo e cultura, e l'emergenza appunto che continua, potete trovarla lì, la conferenza stampa. Poi immagino che in queste ore arriveranno tantissime immagini dalla piazza, come ci arriverà anche la testimonianza dei nostri inviati speciali. Speriamo. Li aspettiamo. E li aspettiamo, e intanto andiamo a ascoltarci le parole ancora dalla conferenza stampa di ieri. La realtà è che il 23 febbraio è una data sicuramente simbolica, a un anno di chiusura dallo spettacolo dal vivo, ma è anche molto più che simbolica, si tratta di una data molto materiale, perché vuol dire che da un anno chi lavora dentro il settore dello spettacolo dal vivo e della cultura non percepisce reddito e si trova ad affrontare una difficoltà che cresce sempre di più anche di fronte a quelli che sono stati i provvedimenti del tutto insufficienti da parte del governo. E quindi abbiamo deciso, ovviamente prendendoci anche e provando a raccogliere la voce di tutti i presidi che saranno nelle piazze italiane, di essere sotto Montecitorio. C'è stato da poco un cambio di governo, ma quello che vogliamo dire sotto quel palazzo è che il problema resta vivissimo, e che è il momento di assumersi le responsabilità. Chi può e deve prendersi le responsabilità lo deve fare, e quindi la nostra richiesta sarà quella della convocazione creazione di un tavolo interministeriale, che è una richiesta che facciamo da tantissimo tempo. Non è sufficiente in questo momento il tavolo in corso soltanto col Ministero dei Beni Culturali e con Franceschini, non è sufficiente perché non è in grado di affrontare tutte le questioni che riguardano le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, non è in grado perché mancano i soggetti istituzionali responsabili come il Ministero del Lavoro, come il Ministero dello Sviluppo Economico, come il MEF, tutti quelli che possono e devono prendere delle decisioni, segnalare quale deve essere la tempistica per una riforma strutturale del settore che andiamo a chiedere da tempo, e soprattutto confrontarsi con chi come noi deve e può portare delle proposte realmente efficaci. Per cui in quella giornata a Roma, ma in tutta Italia, le piazze saranno assolutamente tenaci e decise ad avere la calendarizzazione di questo tavolo interministeriale. Ovviamente sono tante le questioni che porteremo in piazza, ma su questo punto direi che è fondamentale appunto stare dentro al simbolico, quindi una data simbolica e tutte le iniziative possibili, ma cominciare un po' a concretizzare. E vogliamo uscire da domani con una data fissata e con anche noi ministri, le commissioni parlamentari, i parlamentari che saranno presenti e dovranno e potranno fare delle scelte, dovranno assumersi questa responsabilità e insomma fissare questo appuntamento. E ci sarà una diretta con tutte le altre piazze italiane, noi qui a Roma appunto semplicemente raccoglieremo le voci, la spinta delle colleghe e dei colleghi, di tutti quelli che hanno deciso di mobilitarsi in quella giornata. Come si diceva, la piazza è stata lanciata da Autorganizzare Spettacolo e da RISP, la rete intersindacale professionisti dello spettacolo, ma anche qui a Roma le adesioni si sono allargate moltissimo, ci saranno tanti soggetti dalla cultura dello spettacolo, sia lavoratrici e lavoratori che appunto realtà che tentano di fare cultura dal basso e nei territori. L'unione di tutte queste piazze penso che potrà fare la differenza in termini di numeri e in termini di pressione nei confronti delle istituzioni. Senza di me, sempre sui 103.1, sono le 15:36 e sono già arrivati insomma le prime testimonianze dalla piazza dai nostri inviati speciali, ma prima direi di dar comunque voce a un altro lavoratore che quest'oggi sarà in piazza, che abbiamo sentito prima, che è Vincenzo, lavoratore dello spettacolo, e che ci ha un po' raccontato appunto la giornata di oggi e cosa significa essere in piazza oggi. Noi abbiamo scelto di scendere in piazza, di farci vedere, di manifestare attraverso forme di presidio in compatibilità che quelle sono di quelle che sono le norme sanitarie, quindi tutti distanziati con mascherina, perché è un anno che il nostro settore, come tanti altri c'è da dire, è praticamente fermo, bloccato. Siamo stati fermi da un anno praticamente senza lavoro e con poche forme di tutela e supporto economico, e quindi manifestiamo per la crisi del settore per cercare di uscire da questa situazione. Chiediamo attenzione da parte del governo per cercare di migliorare questa condizione, che sappiamo non siamo solo noi ad essere in un momento veramente difficile, però adesso il tempo che è passato è veramente tanto e comincia ad essere veramente complicato andare avanti. Una crisi, diciamo, esasperata dalla pandemia, che ha evidenziato tutta una serie di problemi strutturali che già esistevano, perché comunque l'arte e lo spettacolo rimangono, diciamo, i campi più penalizzati forse, ma in cui la precarietà è ancora forte. Infatti voi avete scritto e pubblicato un manifesto che chiede delle rivendicazioni e chiede dei diritti ben precisi. Ti chiedo se vuoi parlare un po' di questo. Assolutamente sì, noi ci siamo mossi sin da subito perché eravamo consapevoli che il nostro settore avrebbe sofferto più di tanti altri, proprio perché è caratterizzato da una precarietà endemica e di alcune dinamiche e difficoltà che sono intrinseche all'interno di questo tipo di lavori. Abbiamo iniziato le nostre assemblee, mobilitazioni sin da febbraio praticamente dell'anno scorso, quando le prime notizie riguardo alla pandemia e alla crisi sanitaria sono uscite. All'interno del manifesto abbiamo cercato di cogliere in un quadro molto ampio tutte quelle che sono le problematiche del mondo dello spettacolo dal vivo, del teatro, delle arti, della cultura, perché a volte questo settore è sottovalutato e sembra quasi una nicchia piccolissima, ma in realtà piega un sacco di lavoratori, di professionalità, non solo artisti, ma tecnici, maestranze molto specializzate. Sappiamo benissimo che in un momento difficile come questo magari è difficile pensare ai concerti, allo spettacolo, però purtroppo o per fortuna per noi questo è un lavoro, per qualcuno lo era perché ha deciso di cambiare lavoro giustamente per cercare sostentamento, e crediamo che comunque sia molto importante cercare di non dimenticare questo settore, di possibilmente di migliorarlo, di migliorare le condizioni, andare avanti e pensare al futuro non come era prima, ma leggermente almeno, cioè, proiettarlo verso un futuro dove tutte le categorie, tutti i lavoratori dovranno cercare di migliorare le proprie condizioni. E queste le parole di Vincenzo, lavoratore dello spettacolo che abbiamo sentito qualche ora fa, che sarà appunto in piazza oggi qua a Bologna, ma come in tante altre piazze d'Italia, perché lo ripetiamo, oggi 23 febbraio, una giornata simbolo, dalla prima chiusura dell'anno scorso di teatri, cinema, musei, sale da concerto, e quindi il blocco del settore culturale. E quindi abbiamo cercato in questa puntata di dare voce, come quella di Vincenzo, a tutte queste persone che oggi saranno le protagoniste in queste piazze. Infatti, un anno esatto dal blocco totale del mondo dello spettacolo per centinaia di migliaia di lavoratori del settore. Come l'abbiamo già detto anche prima, un anno di profonda precarietà, disoccupazione e assenza totale di prospettive. Siamo consapevoli che una riforma del settore non può esistere se non all'interno di un sistema di welfare che permetta a tutte e a tutti di superare la soglia di povertà grazie all'introduzione di un reddito di base universale. Chiediamo la presa in carico da parte delle istituzioni competenti delle seguenti e urgenti e necessarie richieste: lo sblocco immediato e la conseguente erogazione dei ristori rimasti in sospeso DL Ristori 5 durante queste settimane di instabilità governativa, tempestiva convocazione di un tavolo interministeriale che coinvolga lavoratrici e lavoratori del settore spettacolo e cultura, al quale siedano Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Attenuazione di un'ormai necessaria riforma strutturale, formale e fattuale del settore che tuteli realmente non solo grandi enti e grandi aziende, ma anche e soprattutto lavoratrici e lavoratori. Progettazione e realizzazione di tutte le misure economiche e non relative ai protocolli di sicurezza necessarie a garantire una vera e totale ripartenza del settore. Concretizzazione di provvedimenti finalizzati al finanziamento e al sostegno delle piccole e medie realtà che si occupano di spettacolo e di cultura, che ad un anno dal blocco del pubblico spettacolo rischiano di chiudere e di non poter più compiere il loro fondamentale ruolo legato alla cultura di prossimità su tutto il territorio del nostro paese. Sì, questi sono i motivi e appunto le richieste che sono state raccolte in un vero e proprio manifesto da parte delle lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. E una delle cose che mi come si dice? Preme? Mi colpisce. Ecco, è appunto il discorso su il sostegno anche alle piccole e medie realtà, perché comunque in Italia che si vive tanto di cultura, di musica e di spettacolo, oltre alle grandi ai grandi nomi in scena, questa realtà è portata soprattutto avanti anche dalle piccole realtà. Pensiamo a tutti i festival indipendenti o di teatro, di musica o di qualsiasi altro disciplina artistica in questione, perché sono queste chiaramente le più danneggiate. Ora c'è il grande dibattito, anzi che ormai si è chiuso perché che effettivamente Sanremo si farà, ma pensiamo appunto X Factor, Sanremo, sono grandi macchine che diciamo che in qualche modo l'hanno portata a casa. In qualche modo chiaramente l'hanno portata a casa, perché alle loro spalle c'è una rete molto più grossa rispetto a quella che non hanno invece tutte quelle realtà piccole che oggi saranno in piazza, anzi oggi sono in piazza, perché effettivamente la piazza qua a Bologna è iniziata da 15 minuti, in altre piazze dovrà ancora iniziare. Comunque è la gente che vive dietro, anzi vive di questo lavoro, che però effettivamente al momento fa fatica anche solo a sopravvivere, perché priva di garanzie e alcuna garanzia per il futuro. E infatti tra pochissimo avremo le testimonianze dalla piazza grazie ai nostri inviati speciali Alfo e Giulia. Ma se vogliamo fare un passo indietro, qualche mese fa, e questo è il sottofondo che sentiamo, c'è stato il flash mob rumoroso con 500 bauli in Piazza Duomo a Milano. Questo che sentite appunto la protesta rumorosa dei lavoratori dello spettacolo. Questo è avvenuto il 10 ottobre 2020 in Piazza Duomo. 500 bauli neri sono stati schierati dagli operatori del mondo dello spettacolo per accendere un faro sulla situazione di crisi del settore. Tra i 500 bauli neri di Piazza del Duomo, simbolo appunto dei teatri, cinema, attrezzi e maestranze, c'era un baule rosso al centro. Il baule rosso al centro rappresentava i colleghi che non ci sono più. Il movimento Bauli in Piazza ha radunato 1300 persone tra lavoratori dello spettacolo e imprese del settore, che in questo momento versano in grave difficoltà. 500 bauli neri ben distanziati, altrettanti addetti ai lavori che hanno alternato momenti di silenzio ad applausi come questi appunto che sentiamo in sottofondo, al rumore delle mani che battevano su appunto questi bauli, ed infine hanno compiuto una simbolica chiusura dei bauli vuoti per rimarcare la necessità di ricominciare a riempirli con il proprio lavoro. Tra l'altro è bellissimo il video, ve lo consiglio, perché hanno creato questa appunto diciamo scenografia di tutti questi bauli, che è un po' come, com'è che è il gioco? Che gioco, Lucre? Quelli che fai cadere uno stecchino domino alla volta, tipo il domino, quindi come dei domino vengono chiusi appunto questi bauli neri. Quindi un'immagine molto forte, vi consiglio appunto, se non avete l'immagine in mente, di andare a cercarvela, ma anche sentire questo sottofondo. Tra l'altro il movimento Bauli in Piazza è una delle realtà protagoniste anche della giornata di oggi, che ripetiamo è una mobilitazione che è stata realizzata o comunque è stata portata avanti da tantissime realtà. Se si va sulla pagina e sul sito dell'organizzazione dell'evento di oggi, si vede una lista infinita di realtà che hanno effettivamente contribuito e partecipato alla realizzazione di questo momento di piazza. Quindi appunto è da un anno che ormai il settore della cultura è fermo, e quella dei bauli in piazza è stata una delle varie tappe che sono state percorse dalle lavoratrici e dai lavoratori dello spettacolo ai fini di visibilizzare la loro situazione, che appunto è quella che ci hanno raccontato i protagonisti che abbiamo sentito e che sentiremo ancora poi nelle parole di altri protagonisti e protagoniste che sono direttamente in piazza oggi. Un anno senza eventi, un anno senza reddito, questo diciamo è lo slogan di oggi, perché questa lotta ci riguarda. Quindi noi come Fujiko Factory, come Radio Città Fujiko, seguiamo insomma, sentendo proprio tanto anche noi questa causa, come la causa ad esempio di Ultimo Concerto che ci sarà questo sabato. Noi faremo il giovedì di Fujiko Factory una puntata interamente dedicata a Ultimo Concerto, appunto sempre per dare spazio e voce a tutto quello che ci succede intorno. Però la musica rimane bella, si ha voglia di fare musica insieme, di ballare, di tornare appunto fianco a fianco sotto a un concerto, sotto a un palco. Quindi ci ascoltiamo il prossimo brano e poi iniziamo a sentire le testimonianze dalla piazza. And dance the Dance che ci accompagna in questa puntata di Fujiko Factory tutta appunto per dar voce alla mobilitazione che c'è in questo momento in tutte le piazze italiane, ma direi che è arrivato il momento di dar voce anche appunto a chi in questo momento è in piazza. Secondo voi uno dei problemi della vostra categoria è il non essere sufficientemente uniti e quindi non essere in grado di far sentire la vostra voce e di rappresentarvi nella maniera giusta rispetto ad altre categorie? Sicuramente il nostro settore calcola e comprende diverse figure professionali che sicuramente tra di loro sono anche a volte anche poco solidali, ma in questo anno devo dire che il problema di cui parli si sta riconoscendo e si sta piano piano risolvendo. Ci siamo ritrovati disuniti e stiamo cercando di riunirci e di trovare dei punti in comune che purtroppo sono anche delle criticità che abbiamo in comune, quindi direi che siamo sulla buona strada per riunirci tutti sotto gli stessi ideali e le stesse necessità. Sì, queste erano le parole di una lavoratrice dello spettacolo in piazza che il nostro inviato speciale Alfo ha intervistato, e appunto si rimarca l'unione che c'è dietro a questa mobilitazione. La ragazza ha spiegato come forse sono stati penalizzati prima da una disunione che però si sta sviluppando invece e sta progredendo verso un'unione. Infatti noi prima abbiamo citato la quantità di realtà che hanno partecipato a questa mobilitazione, e sono veramente tantissime, e secondo me questa è sicuramente un passo verso poi un'unione della serie L'Unione fa la forza. Però è vero, l'unione fa la forza, un po' come mi viene da dire appunto Ultimo Concerto che ci sarà il 27, mi sembra un primo grandissimo passo verso un qualcosa che speriamo possa cambiare, anche perché poi il manifesto, no, con cui si manifesta Ultimo Concerto è che l'ascolto della musica, la partecipazione agli eventi live, ma soprattutto l'incontro con musiche di ogni tipo sono fondamentali per la crescita culturale delle persone e sostengono processi di coesione sociale. E infatti i live club sono essi sale private o circoli, giocano un ruolo di primo ordine in questo contesto. Infatti secondo i dati dell'osservatorio annuale SIAE 2019, nell'ambito delle attività di spettacolo i concerti e le manifestazioni musicali dal vivo rappresentano il primo settore in assoluto come volume d'affari, pari quasi 1 miliardo, il secondo settore dopo il cinema per un numero di spettacoli 385.000 e numero di ingressi e presenze 53 milioni fra spettacoli di musica leggera e i cosiddetti concertini e spettacoli all'aperto. Quindi insomma stiamo parlando di numeri importanti, e i live club sono anche uno dei pilastri su cui si reggono questi dati e, a prescindere da forma giuridica, dimensione e localizzazione, hanno un comune denominatore, che è la programmazione culturale e il sostegno alla creatività e alla promozione di artisti che organizzano quindi appunto eventi di musica originale dal vivo, quindi spazi dove si respira arte, cultura e conoscenza attraverso esposizioni di arti visive, cineforum, laboratori creativi, convegni, corsi e incontri di approfondimento. Sono luoghi multifunzionali, multidisciplinari, di promozione culturale e del proprio territorio. Diciamo che è una ricchezza importante, una ricchezza di competenze e funzioni che rende i live club degli ambienti fortemente dinamici all'interno dei quali lavorano migliaia di persone nell'ambito delle professioni dello spettacolo. E vorrei anche dire ambienti fortemente dinamici che stiamo rischiando di perdere senza appunto degli aiuti concreti dallo Stato. E infatti fino ad oggi non è mai stato riconosciuto il valore e il ruolo di questi spazi, al pari di quello che avviene ad esempio per cinema e teatro. Per questo, mentre ci interroghiamo sull'ultimo concerto, immaginiamo come sarà e se sarà il prossimo concerto. Quindi un concerto che va innanzitutto salvato subito, che va svolto in luoghi riconosciuti, sostenuti e valorizzati, che deve avere luogo in un contesto di riforma complessiva dello spettacolo dal vivo. Quindi insomma è assolutamente necessario definire urgenti misure di blocco delle imposte e un sistema di compensazione economica proporzionale al livello di impatto che il settore ha subito in questi 12 mesi, ma anche nei mesi a venire. È urgente un riconoscimento valoriale e istituzionale della categoria dei live club come sale spettacolo per la musica contemporanea dal vivo con pari dignità di cinema e teatri, come già avviene in altri paesi europei, permettendo di accedere ad agevolazioni e misure di sostegno stabili, quindi la possibilità di fruire, relazionarsi e arricchirsi socialmente e culturalmente, che non è solo quindi un'esigenza ma è anche una, insomma, della gran parte della popolazione che si ha nei diversi momenti della vita, ma è soprattutto, ed è questo importante da riconoscere, che è un servizio culturale ma soprattutto un diritto essenziale di cittadinanza che deve essere garantito. Esatto, queste erano le parole del manifesto di Ultimo Concerto, che è un'altra realtà che ha copartecipato alla realizzazione della mobilitazione di oggi. E noi abbiamo tra l'altro qualche puntata fa sentito tre voci di tre proprietari di locali bolognesi che ci hanno appunto spiegato come si auspica una ripartenza, ma bisogna arrivarci a questa ripartenza, quindi si rischia, oltre al momento il blocco del settore, poi ripartire in queste condizioni sarà ancora più difficile, quindi non si hanno certezze né di date né di come si dice, prospettive né di prospettive, e quindi al momento la gente sopravvive a fatica, ma per una possibile riapertura si vedono anche difficoltà a metterla in piedi. E a proposito di riapertura, in realtà anche i teatri ovviamente stanno dando voce a tutte queste iniziative come l'hashtag Facciamo Luce sul Teatro. Infatti ieri sera dalle 19:30 alle 21:30 ad esempio il Duse a Bologna, ma tanti altri teatri simbolicamente hanno acceso il teatro aderendo all'iniziativa Facciamo Luce sul Teatro, lanciata da Associazione Unita, che è l'Unione Nazionale degli interpreti teatro e audiovisivo, affinché si torni a parlare di spettacolo dal vivo con l'obiettivo di programmare una riapertura in sicurezza, perché appunto quello che noi chiediamo e la piazza chiede è una riapertura garantendo ovviamente la sicurezza a tutti i lavoratori e alle lavoratrici e soprattutto anche al pubblico, allo spettatore. Esatto, ieri ho seguito un'intervista del ministro Franceschini a cui veniva chiesto appunto una possibile data o comunque una possibile apertura prossima o quanto prima, e il ministro stesso era comunque in difficoltà, nel senso che appunto per ripartire ci vuole tutta una serie di garanzie, tra cui anche la messa in sicurezza, perché chiaramente è anche cura da parte di chi apre, chi vuole organizzare queste cose, di permettere alla gente poi di viversi l'esperienza nella maniera più sicura possibile. Quindi ora io sono curiosa di sapere cosa succederà e cosa farà questo governo a riguardo, ma al momento dobbiamo aspettare. Però insomma le voci sono forti, come dimostrano le piazze di oggi, e quindi aspettiamo.